Sono al telefono con Angela Amalfitano. Buongiorno Angela e benvenuta. Buongiorno a tutti. Ti volevo chiedere subito in che cosa consiste il progetto Voglio Stare Bene. Sì, il progetto Voglio Stare Bene consiste di due laboratori gratuiti per la cittadinanza, uno di teatro e narrazione e l'altro di scrittura creativa. Devo dire che sono però all'interno di un progetto più ampio e articolato che si concluderà a fine giugno, che si chiama Il Corpo delle Donne, corpo sociale, una lunga storia di interazioni. È un progetto però molto bello, di eventi, incontri, laboratori, narrazioni, raccolte di testimonianze, ricerche d'archivio sul corpo delle donne, ma non solo. Ormai sono 3 anni che siamo in attività e ci stiamo aprendo anche al corpo sociale di tutti, uomini e donne, tutti i generi, e al benessere. Insomma, è un progetto di teatro e welfare, ecco, per cui raccontiamo anche le storie delle istituzioni della salute del territorio. In particolare, quindi, ritorno ai due laboratori che abbiamo intitolato Voglio Stare Bene. In realtà proseguono anche qui la tradizione, ormai al terzo anno, di fare dei laboratori all'interno della Casa della Salute Navile, nel quartiere Navile, e che hanno poi anche esiti pubblici spettacolari. In questo caso, data la situazione, come sapete, dobbiamo farlo online, ma contiamo nel mese di aprile almeno di andare in presenza. Si parla, si racconta, si raccolgono anche qui le narrazioni e i vissuti emotivi anche delle persone in questo periodo terribile di pandemia. Quindi rispondiamo, crediamo di rispondere anche alla necessità delle persone di raccontarsi, di stare in socialità e di raccontare il loro vissuto sia di questa pandemia, di questo periodo, ma anche del proprio passato, perché no, della propria biografia. E le modalità e le tempistiche dei corsi invece quali sono? Dunque, lunedì prossimo alle 17:30 ci sarà un primo incontro informativo dove saremo presenti entrambe, cioè io che guido il laboratorio di teatro narrazione, Donatella Allegro che invece segue quello di scrittura creativa, con la piattaforma Zoom e un link che verrà mandato a chi chiede le informazioni, a chi lo chiede. Faremo un incontro di presentazione di entrambi i laboratori, per poi proseguire nel mercoledì successivo, perché il mio laboratorio è di lunedì, teatro narrazione di lunedì, scrittura creativa di mercoledì, dalle 17:30 alle 19:30. Poi proseguiremo nelle settimane a seguire. Due laboratori saranno staccati, ma il materiale che poi si creerà con il laboratorio di cura creativa verrà fornito al laboratorio di narrazione, che nel frattempo avrà comunque raccolto e fatto elaborato anche degli altri materiali, ma tutti i materiali che vengono dalle storie dei partecipanti, che siano orali o che siano scritte, sono in contatto, per cui ci sarà, come dire, un processo di osmosi, di collegamento tra l'uno e l'altro laboratorio. Per avere informazioni basta scrivere alla mail collettivoamalia@gmail.com, collettivoamalia@gmail.com, perché il gruppo che sta dietro a questo progetto si chiama Collettivo Amalia. Perfetto Angela, io la ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per il vostro lavoro. Speriamo di potervi grazie. Vedere fisicamente in scena, sì. Ecco. Grazie, crepi il lupo, vi ringrazio. Voglio nominare l'azienda USL che è in patrocinio, che ci ha dato il patrocinio, e la Regione Emilia-Romagna Pari Opportunità che finanzia questo progetto.